E allora questa è la rassegna stampa di 24 Mattino. Siamo pronti a leggere le notizie sui giornali. Andiamo, Carmelo! Patriciari, amicizia lunga. Mi sa che dobbiamo aggiornare anche questa, però insomma in onore dell'ex presidente americano Obama, patriciari, amicizia lunga. E allora va bene. Allora, siamo a giovedì 26 gennaio, intanto i titoli comprensibilmente quasi tutti dedicati all'Italicum e alla decisione della Corte Costituzionale, a parte il Sole 24 Ore che apre su Wall Street al record superati 20.000 punti, ma in prima pagina c'è anche in risalto legge elettorale, la Consulta boccia il ballottaggio ma salva il premio. Il Corriere della Sera... Cambia l'Italicum e scontro sul voto. Per Repubblica la Consulta apre la corsa al voto. La Stampa, Italicum bocciato, elezioni più vicine. Il Messaggero, addio Italicum, scontro sul voto. Per Il Fatto Quotidiano, l'Italicum di Renzi è incostituzionale. Ora si può votare coi capilista a sorte. La Verità titola, i giudici resuscitano Renzi. Per la decisione della Consulta. Anche Il Giorno assicura Consulta, il voto è più vicino. Il Giornale, parte la corsa al voto. Come vedete, grande fantasia oggi. Unità, ora se si vuole si può votare. Il Manifesto titola In Consulto con la foto di Renzi, mentre Avvenire la Corte rifà la legge. E vedete, anche Libero ha un'apertura diversa, non... sulla Consulta, presi in giro dallo Stato, terremotati e incazzati. Questo è il titolo di prima pagina di Libero. Voglio però lasciare per un attimo da parte la questione della Consulta e parlare di altri articoli che mi hanno colpito, come il reportage del Corriere della Sera dalla Carinzia, regione austriaca al confine con l'Italia. Carinzia, rifugio degli italiani. Andrea Pasqualetto fa da Klagenfurt questa corrispondenza molto interessante, racconta di come molti italiani, soprattutto imprese, ma anche lavoratori e autonomi, abbiano deciso di trasferirsi in Carinzia, ovviamente dalle zone limitrofe italiane. Perché? Perché ci sono meno tasse, servizi più efficienti. Ecco perché tanti scelgono di trasferirsi oltre confine. Le nostre aziende triplicano. Per esempio c'è questa cifra raccontata a pagina 22-23 in questo reportage del Corriere della Sera. L'agenzia governativa austriaca ABA parla di 438 imprese di proprietà italiana presenti sul territorio. Sono più del triplo rispetto a 10 anni fa. C'è di tutto, dai gelatai, le medie industrie, pizzaioli, commercianti, ristoratori, albergatori, start-upper. Per esempio, sentite anche alcuni pareri, come il nordestino Enrico Boaretto, che dopo aver lavorato 3 anni con il Nobel Carlo Rubbia, prova ad aprire la sua attività in Friuli, poi decide di trasferirsi in Carinzia, dove ci sono poche semplici regole applicate velocemente per il business e la vita. Hai un credito fiscale? Il mese dopo te lo ritrovi in conto. Il tuo progetto piace? Un anno e mezzo di uffici gratuiti. Tornerai in Italia? No, la risposta secca. A Klagenfurt c'è anche la DMC di Fernando De Filippo, arriva da 16 anni a San Marino. In Austria siamo start-up, dicono. Noi paghiamo più tasse rispetto a San Marino, ma i tempi di risposta delle amministrazioni sono eccezionali. E poi, diciamolo, non esistono le mazzette. Quindi la corruzione. E poi c'è anche il racconto della moglie del sindaco di Tarvisio, che è vicino al confine, è stato anche nostro ospite varie volte, il sindaco di Tarvisio Renato Carlantoni, la cui moglie, dirigente marketing al resort termale Varbad, ha scelto di vivere a Villach. Barbara Lager si chiama, sono residente, vivo e lavoro qui. Perché? Perché conviene. Soprattutto se sei mamma e dipendente, come lo sono io, pago il 30% meno di tasse, ho varie agevolazioni, potrei fare durare la maternità fino ai 3 anni. Al rientro in azienda non sono licenziabile fino al compimento del 7° anno di età del bambino. E così continua il racconto. Beh, è un reportage dalla Carinzia, Austria, che ovviamente fa gola a molti italiani. Certo, a un certo punto Pasqualetto racconta: non è tutto oro quel che luccica, per esempio non c'è la cucina italica. Oh, mamma mia, siamo ancora legati gli spaghetti mandolino. E dai, la cucina italica te la fai in casa, cioè, cucini in italiano e cucini quello che vuoi. Va bene, dalla Carinzia passiamo all'Italia e torniamo all'Italia, varchiamo il confine, entriamo nel dorato mondo della scuola. Oggi ci sono tre notizie al mondo della scuola che mi hanno colpito. La prima è un professore che ha scritto al ministro Valeria Fedeli. Il suo sfogo è su Repubblica. Il titolo, come racconta nell'intervista di Salvo Intravaia a pagina 19, è questo: il professore scrive alla ministra pagato per non lavorare, ora basta, e racconta questa storia assurda. Lo dice lui stesso: è assurdo, mi pagano per non lavorare e oltre a sentirmi derubato del mio lavoro mi vergogno a dirlo a chi fatica ogni giorno per guadagnarsi da vivere. Questo professore si chiama Daniele Costantino, insegna filosofia, è del Palermitano, ma insegna in un prestigioso liceo classico torinese, è all'Alfieri. E la sua, più che una denuncia, è uno sfogo. Ma come sarebbe a dire la pagano per non lavorare? Il mio impegno è quasi zero. Vado a scuola 18 ore a settimana, timbro il cartellino, passo dai bidelli per vedere se mi hanno assegnato qualche sostituzione e se non è così mi siedo in sala professori e aspetto. Questa è la mia vita, da 4 mesi a questa parte. Ogni mattina alle 6 mi sveglio, spero di uscire da un incubo, mi illudo che sia ancora il 13 agosto, quando dovevano uscire i risultati delle richieste di trasferimento. Poi mi alzo, guardo fuori, è buio, fa freddo, guardo la data sul telefono e realizzo che è vero. Anche oggi andrò a scuola per non sapere cosa fare. Ma com'è potuto succedere? L'estate scorsa ottengo il trasferimento all'Alfieri, filosofia, psicologia, scienze dell'educazione. Lì per lì la cosa mi sorprende perché è il classico, la filosofia abbinata alla storia, è affidata a docenti di un'altra classe di concorso. Io ho anche quell'abilitazione, ma un puro caso, così ad agosto contatto la scuola e i dubbi aumentano. Il mio incarico, mi comunica il preside, è sul potenziamento, cioè... ma è un contingente di docenti aggiuntivi introdotto dalla buona scuola per fare attività di recupero. Beh, bello, lo so, ma solo sulla carta. E l'esperienza non mi lasciava presagire niente di buono. Avevo visto validi colleghi neoassunti parcheggiati in aula insegnanti, a disposizione per supplenze impiegati. Ma il dirigente mi ha rassicurato, il mio lavoro sarebbe stato gratificante. E dunque... l'anno è iniziato e mi è apparso chiaro il mio lavoro gratificante, stare a disposizione 18 ore a settimana, senza un progetto, senza un posto, senza un compito preciso. E dice, racconta che alcuni insegnanti per pietà, impietositi, mi hanno chiesto di fare degli interventi in classe, se no coordino le uscite didattiche al cinema, le visite di istruzione, manifestazioni. Ed è incredibile la dignità di questo docente che dice voglio lavorare, mi sembra una cosa assurda, 18 ore a settimana seduto in aula docenti a aspettare che mi mandino in classe. Vabbè, sarà un caso limite, forse ce ne sono altri, non lo so. Comunque, scuola, 2 lauree da registrare. Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia, anche un'esperienza in carcere per favoreggiamento alla mafia, tornato in libertà più di un anno fa, ieri si è laureato, 110 lode, ho studiato in cella di notte, così mi sono salvato, racconta Giovanna Cavalli sul Corriere della Sera a pagina 24. Lauree, domani si laurea Francesco Rutelli, a 62 anni, lo racconta il giornale, pagina 4, lo fa Massimiliano Scafi e racconta che questa laurea, che Rutelli dice era una promessa che ho fatto a mio padre, dovevo tanto a lui e gliel'avevo promesso 2 anni fa, in realtà il giornale ci vede un sospettino, e cioè questa laurea conquistata comunque con grande fatica, 62 anni, viene conseguita da Rutelli perché punta alla direzione generale dell'UNESCO, alla quale a quanto pare è il candidato forte, e quindi per fare il candidato forte e il direttore UNESCO ci vuole una laurea, e quindi si laureerà domani. Lui dice non è vero, l'ho fatto per mio padre. Va bene. Invece da New York buone notizie per l'Apoel Cannes. cadono tutte le accuse, non si è neppure presentato in aula davanti al giudice, racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. I giudici americani archiviano il caso, lui dice: sono rinfrancato. La decisione mi rincuora, rinforza il sentimento di fiducia che ripongo da sempre nella giustizia americana. Ho attraversato un momento difficile. Insomma, racconta tutto. Comunque, tutto caduto. Cadono le accuse per Lapo e il Can. Le notti col transessuale, il finto rapimento inscenato, tutto archiviato. Inizialmente si raccontava erano pene che rischiava da 2 a 10 anni di carcere. E invece disavventura chiusa. Ma questo invece è l'articolo che mi fa pensare della giornata. L'articolo da Mani sul Volante, corroborato anche da un video diffuso al Corriere.it e si può vedere in rete, della vicenda avvenuta a Venezia, dove un immigrato, un profugo della Gambia di 22 anni, si è gettato da un ponte e in acqua e nessuno si è gettato in acqua per salvarlo. E va bene, io non giudico. Tutti però hanno tirato fuori il telefonino per riprendere la scena. Il giornale racconta con Nino Materi: suicida nel Canal Grande, insultato mentre annega. C'è questo video, dura meno di un minuto, nel quale risuonano queste parole: Africa, negro, pezzo di merda, scemo, fino al va, lasciamolo morire. Il tono di chi pronuncia queste parole, scrive il giornale, è una via di mezzo tra il sorpreso e il divertito. E il giornale, che certamente non è un quotidiano tenero sui temi immigrazione, però è l'unico giornale che dedica mezza pagina a questa storia, a questo profugo, Pate Saballi, 22 anni. Pare avesse deciso di farla finita per un permesso di soggiorno negato. Veniva dal Gambia. Durante il viaggio verso l'Italia era scampato alle acque tumultuose su una carretta del mare, morto a Venezia nelle acque placide del canale più famoso del mondo. Pochi minuti prima aveva appoggiato il suo zainetto sul ponte, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Non un biglietto, non una parola, solo un tuffo verso il nulla, sotto gli occhi di una folla che guarda senza vedere. Alessandro Milan, il conduttore che mi fa più incazzare della giornata. Il primo, perché poi c'è Cruciani. Va bene. Vabbè, per iniziare e finire la giornata così, abbastanza incazzati. No, vabbè, ma deve essere una incazzatura positiva e propositiva. Cioè, non voglio che poi passiate la giornata arrabbiati, cioè, ma consapevoli, ricordate. Non arrabbiati, ma consapevoli. Questa è la chiave di lettura giusta. Allora, dobbiamo concentrarci sulla legge elettorale, la sentenza della Corte Costituzionale, le cui motivazioni verranno pubblicate nel giro di un mese circa. Al momento si sa che cosa, come racconta Donatella Stasio. Beh, che è stato bocciato l'Italicum in alcune parti sostanziali. L'Italicum è la legge in vigore per la Camera, anche se non è mai stata approvata, ma è una legge elettorale approvata dal Parlamento. Racconta Donatella Stasio: bocciato il ballottaggio, via la possibilità per i capilista bloccati pluricandidati di scegliersi discrezionalmente il collegio di elezione. La Corte Costituzionale consegna al Parlamento una legge elettorale della Camera tendenzialmente proporzionale, con un premio di maggioranza solo alla lista che superi il 40% e con i capilista bloccati destinati al collegio di elezione sorteggiato tra tutti quelli in cui sono candidati. Questa è la normativa di risulta dell'incostituzionalità dell'Italicum, dichiarata ieri dalla Consulta dopo 6 ore di Camera di Consiglio. Però i partiti politici, ci sono tutti gli schemi, ovviamente la legge elettorale è un qualcosa di molto tecnico, l'abbiamo detto tante volte. Cosa è cambiata e come è cambiata per la sentenza della Consulta? C'è però una riga, l'ultima riga del comunicato della Corte Costituzionale, ed è la riga sulla quale si sono appigliati tutti i partiti per dire: beh, a questo punto si può votare. La riga è quella in cui c'è scritto: all'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione. È un'ovvietà, inserita dal punto di vista tecnico, scrive Giovanni Bianconi a pagina 2 del Corriere della Sera, perché è inserita per tenere fuori la Corte dalle zuffe politiche sul punto. E però cosa vuol dire? Vuol dire che se applicabile, ecco che tutti i titoli che ho letto di prima pagina hanno scatenato la corsa al voto. Parte subito la sfida sul voto. Chi vuole il voto? Beh, Renzi sicuramente, anche se in tutti i retroscena Renzi viene dato per, come dire, moderato, cioè non facciamoci vedere troppo scalpitanti. Per ora ha creato un nuovo blog e raccontano in retroscena, come quello di Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa a pagina 3, che è un Renzi che dice: beh, bene, secondo la stampa addirittura è un Renzi trionfante che dice: ragazzi, ma questo è un trionfo, che tra l'altro è singolare questa cosa, cioè la Corte Costituzionale ha bocciato l'Italicum che lui tanto ha voluto in parti fondamentali, ma adesso Renzi esulta perché questo potrebbe portare a un'accelerazione verso il voto. Però attenzione a un Renzi che si mostra prudente, come racconta il Corriere della Sera. Qualche tempo fa sarebbe andato in TV, adesso non è più premier, adesso mostra prudenza, adesso fa cancellare un tweet al suo fedelissimo e tesoriere del partito, Bonifazi, che aveva twittato: ora niente alibi, votiamo e vediamo chi ha i numeri nel paese. Fuori mood, bocciato, tweet fatto cancellare, fa sapere la stampa con Fabio Martini a pagina 3. Però è un Renzi che gongola, è Renzi che dice: niente ostacoli, si va alle urne. Questo lo dice almeno ai suoi. Così Renzi vede le urne più vicine, pagina 3 di Repubblica. Parte subito la sfida sul voto, spinta di Renzi, ma anche Grillo e Salvini, mentre Forza Italia e i centristi frenano. La stampa invece con Andrea Carugati fa sapere che c'è l'incubo dei peones. Oddio, le urne, questo alla Camera, si rafforza il fronte anti-elezioni. Ci sono quelli che premono per il voto e quelli che premono per non andare al voto. C'è anche poi forse il partito del cosiddetto vitalizio, di coloro che invece non vogliono andare al voto perché matureranno un vitalizio a settembre, essendo la prima legislatura. Francesco Verderami fa un'analisi sul Corriere della Sera, pagina 5, ce ne sono tantissime di analisi oggi sui giornali, come potete immaginare, e racconta di un Renzi e Berlusconi che sono profondamente divisi, ma che in qualche modo sono costretti a un compromesso. Accomodati sul ponte di prima classe del Titanic, Renzi e Berlusconi, scrive Verderami, continuano a ignorarsi e a detestarsi. Ancora pochi giorni fa Renzi aveva definito il cavaliere inaffidabile, mentre il fondatore del centrodestra, cioè Berlusconi, aveva sostenuto che Renzi sta facendo la figura del coglione. Queste sono indiscrezioni che, secondo Verderami, rivelano i rapporti che ci sono tra i due, ma pur rinfacciandosi Berlusconi a Renzi di aver rotto il patto del Nazareno e Renzi a Berlusconi di essere inaffidabile, in qualche modo, scrive Verderami, i due dovranno essere costretti a una sorta di compromesso, una sorta di patto per cercare di fermare l'avanzata del Movimento 5 Stelle. Vabbè, lasciamo la Consulta e arriviamo a Roma. A Roma ancora oggi i giornali raccontano tutti i dettagli di Virginia Raggi, indagata nell'inchiesta relativa alla nomina del capo di Dipartimento del Turismo del Campidoglio, è Renato Marra, cioè fratello di quel Raffaele Marra, ex braccio destro di Virginia Raggi, finito in carcere. I PM puntano sul giudizio immediato, dalla chat emerge il patto Marra-Romeo. Questo è il titolo di pagina 8 del Corriere della Sera. Al di là dell'inchiesta si racconta in un retroscena racconto di Fabrizio Roncone a pagina 9 del Corriere della Sera, di una telefonata tra Beppe Grillo e Virginia Raggi, una telefonata in cui Beppe Grillo si mostra infuriato. Certo, non ci sono testimoni diretti, ma il racconto è abbastanza dettagliato di Fabrizio Roncone. A un certo punto Virginia Raggi va in ufficio, riceve una chiamata, vede sul display Grillo, risponde, fa solo tempo a dire ciao, il capo è furibondo. E racconta Roncone: pochissimi, Uno è Luigi Di Maio, sanno come e cosa può urlare Grillo quando è furibondo, perfino la voce gli diventa più sottile, l'inflessione genovese si accentua e attacca. Carico a pallettoni, mi hai ingannato. Questo è il succo della frase, con il sindaco Virginia Raggi che ascolta Beppe Grillo, mani nei capelli, occhi lucidi. A un certo punto entra la segretaria di Virginia Raggi nell'ufficio dicendo: scusi sindaco, sarebbe arrivato l'ambasciatore d'Irlanda, Bobby McDonagh, c'è da mettere a punto i festeggiamenti per San Patrizio il 17 marzo, ma racconta Roncone il pensiero di Virginia Raggi, ma io il 17 marzo sarò ancora qui? Si pone questa domanda. Insomma, un Grillo che chiama furioso dicendo: mi ha ingannato, giura il Corriere, Virginia ormai è sola. Certo, sono tutti racconti, retroscena, non è che c'è una testimonianza diretta, ma questa ve la propongo dal Corriere della Sera. Caro Mauro Meazza, tu non mi hai ingannato. Buongiorno Alessandro, no perché, ma non mi permetterai mai. Vabbè. Ascoltavo consapevolmente la trasmissione fino a poc'anzi, molto consapevolmente, e vedo che già hai dato conto di quanto scriviamo sul Sole 24 Ore per la decisione della Corte Costituzionale. Ti volevo segnalare qua e là, se tu avessi per caso 3 miliardi e 400 milioni, anche non subito, ma insomma entro domani, sì. No, perché come spieghiamo si arriva un po' al rush finale, lo spieghiamo a pagina 2, con l'Unione Europea. Sì. Bisognerebbe un po' rientrare di questo 0,2 che, detto così, non fa effetto, ma forse 3 miliardi e 400 milioni da più l'idea della questione. Comunque vedremo oggi giornatina dedicata per il Ministro dell'Economia che è all'Eurogruppo, ci sono tutti gli incontri di rito, consiglierei anche la lettura prove di compromesso UE che è affidato appunto all'ottimo Beda Romano che può spiegare come stanno le cose. Molto altro però ti vorrei dire, ad esempio, che prima parlavi di gente che va all'estero perché ci sono provvidenze, ma anche per noi si sta pensando un buono nido nell'attuazione per di noi, pezzi di buona scuola per noi italiani, no? Allora. Io oramai col nido rischio di essere un pochino fuori età, ma forse anche tu mi pare, sì. E si sta pensando a un buono nido che potrebbe essere erogato appunto a sostegno dell'iscrizione dei figli piccoli nel nido, vedremo se questo poi diventerà legge. C'è la proroghina. La proroghina per le spese mediche da mandare all'Agenzia delle Entrate per poi ricevere la dichiarazione precompilata. So che tu sei molto interessato, il 2 febbraio vieni a Telefisco, come ti ho tenuto il posto. Sono in prima fila. Molto bene, perché ti ho tenuto il posto, ci tengo molto alla tua presenza. Il 2 di febbraio spiegheremo anche questo, comunque c'è una proroghina per tutte le professioni sanitarie che dovevano inviare i dati dell'anno scorso, hanno ottenuto qualche giorno in più al 9 febbraio, lo diciamo naturalmente su norme e tributi. E poi importante, c'è un disegno di legge sull'equo compenso per i professionisti, cioè sai che con la crisi anche i professionisti hanno avuto un po' di problemini a farsi pagare il giusto, ne riferiamo come sempre in norme e tributi. Buone notizie per l'export italiano nelle pagine di Imprese e Territori che leggerai scrupolosamente, e poi da meditazione ma anche da staccare e conservare Casa 24, dove riferiamo i diritti per i contratti di convivenza, quelli introdotti appunto dalla legge cosiddetta Cirinna. In ultimo, ma non per questo meno importante, caro Alessandro, il fatto che c'è stato un sequestro di 18 milioni di litri di carburante, come dire, abusivo, clandestino, perché sta dilagando un po' questa moda di così spacciare benzine, nafta, che non sono in regola, e c'è stata una maxi operazione di cui riferiamo nelle pagine Imprese Territori. Come mai ti parlo ora di carburanti? Chi lo sa? Nel farti le mie congratulazioni. Grazie. Ma vabbè, è andata così. Che vuoi fare? È perché Mauro Meazza è contento che vinca la Juve, diciamo. No, Mauro Meazza è felice quando vince la Juve. Si sveglia e vede il sole anche sotto le nuvole quando vince la Juve. Guarda, Alessandro, ho querelato per molto meno. E tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan, il più bischero dell'informazione. Su questo non c'è dubbio, cara ascoltatrice. Allora, In tutto rimango sul Sole 24 Ore, la pagina di Finanza e Mercati, perché lì, come su tanti altri giornali, quasi tutti, si raccontano tutti retroscena del possibile riassetto dell'Unione tra Intesa e generali Intesa al lavoro sull'OPS. Per Trieste la difesa dell'indipendenza passa dal piano, lì le opportunità per crescere. Ci sono tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, ci sono anche sugli altri giornali, e vi voglio sottolineare segnalare l'articolo di Ettore Livini a pagina 11 di Repubblica. Il titolo è questo: quel forziere da 650 miliardi di euro che spinge per la soluzione nazionale. Si spiega in questo articolo anche perché il governo punti a una scelta che premi Intesa San Paolo su generali. Perché, scrive Livini, l'Italia ha 650 miliardi di euro di buoni motivi per augurarsi che Generali non cambi passaporto. Banche e assicurazioni tricolori, e al tesoro lo sanno bene, hanno salvato il paese dal default tra il 2011 e il 2012 in piena crisi euro, comprando titoli di Stato quando nessuno li voleva e quando gli stranieri fuggivano. E dunque oggi sono loro il primo affidabilissimo creditore dello Stato, grazie a un portafoglio gonfio, appunto, 650 miliardi. Sono i BTP e i BOT, sono il 35% del totale in circolazione, un tesoretto fondamentale per la stabilità finanziaria nazionale che nessuno vuol vedere migrare all'estero. È per questo motivo che l'esecutivo, cioè il governo, tifa con sobrietà istituzionale Intesa San Paolo. Dunque ci sono 650 miliardi di obbligazioni italiane, 35% del totale in circolazione, lì in quel forziere, nelle assicurazioni, e quindi si vuole che rimangano in Italia. Allora, lasciamo la finanza, il terremoto, i terremotati, il titolo di Libero è Terremotati e incazzati, in titolo di prima pagina. Perché? Perché ieri si sono messi insieme, sono andati a Roma a manifestare in corteo. Il titolo, per esempio, del Corriere della Sera, pagina 18, è questo: la burocrazia uccide più del terremoto. Uniti non si trema, a noi la scossa, a Roma datevi una mossa. Questi alcuni degli striscioni esposti per protestare contro la burocrazia, per protestare contro le lentezze, contro le lungaggini, e anche probabilmente contro alcune decisioni, per esempio quello delle riffe, le lotterie, situazioni abbastanza incresciose, cioè vedere le casette assegnate per lotterie perché non ce ne sono ancora per tutti quanti. Va bene, allora bisognerebbe adesso celebrare la vittoria della Juve in Coppa Italia. Va bene, allora ti leggo il titolo della Gazzetta: Juve avanti Pjanic. Questo è il titolo di prima pagina. Ma la Juve che festeggia per la semifinale di Coppa Italia. C'è un burlone della Juve che mi ha scritto: anche quest'anno non vincete nulla. Per ora abbiamo vinto una Supercoppa, se ricordano i tifosi della Juve, dovrebbero ricordare. Voi per ora zero titoli, ma sicuramente alla fine dell'anno ne avrete tre grandissimi, giganteschi: Scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa Italia. Cioè, sono già della Juve, e a lei, evviva. Però, pur dovendo esultare i tifosi della Juve, non leggete il Fatto Quotidiano, perché oggi in prima pagina, il titolo principale, a centro pagina del Fatto Quotidiano, fa un titolo che è questo: Agnelli incontrava i mafiosi, virgolettato. È un'accusa durissima. Un'esclusiva del Fatto Quotidiano, la conclusione indagini della giustizia sportiva che attribuisce al numero uno bianconero rapporti personali con esponenti della malavita organizzata. È una vicenda relativa ai capi ultra, la gestione dei biglietti. Il capo ultra legato alle 'ndrine aveva detto ai PM di Torino: mi vidi con Andrea, cioè Agnelli, e parlammo della gestione di biglietti e abbonamenti. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, sicuramente ci sarà oggi la smentita. Ha agevolato i bagarini ultra e incontrato gente della malavita. Faccio vedere in diretta sul mio profilo Facebook, sono Andrea Giambatolomei e Carlo Tecce che raccontano questa vicenda sul Fatto Quotidiano in prima pagina. Va bene, questo è un articolo che invece vi segnalo dal Corriere della Sera, sono le quattro regole del sonno. Io dovrei leggerle e studiarle con molta attenzione, le quattro regole del sonno per dormire bene, a pagina 25. Bisogna addormentarsi entro 30 minuti da quando vi siete coricati nel letto e non svegliarvi più di una volta. Pochi risvegli notturni, se no vi svegliate come me, stanchi, al mattino. Alle 5 possibilmente. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina del Messaggero che racconta la separazione tra Belen e Stefano. Si sono visti in tribunale, hanno raccontato, hanno parlato, anzi non si sono parlati. Belen non riceverà assegni familiari, ma riceverà, non riceverà alimenti, ma riceverà 1.000 euro al mese per il sostentamento del loro figlio. Ma chi se ne frega!